Il principio affermato nel protocollo è che la produzione può proseguire soltanto in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Quindi il concetto è semplice: se non vi sono adeguati livelli di protezione, il lavoratore può astenersi. Che significa questo? Quali sono questi adeguati livelli di protezione? Nel protocollo non è che sono definiti esattamente, perché i settori produttivi sono i più diversi. Innanzitutto è un protocollo che si applica sia al pubblico che al privato. Ci sono delle misure che sono già state indicate nel DPCM dell'11 marzo 2020, che sono la massima utilizzazione dello smart working, l'incentivazione di misure di astensione dal lavoro con ferie, permessi e con congedi, l'applicazione di protocolli anticontagio, l'incentivazione di operazioni di sanificazione, la limitazione di spostamenti. Con il nuovo protocollo, invece, si obbligano le aziende ad una serie di comportamenti. Da un lato c'è un obbligo di informazione: il lavoratore non può, non deve entrare al lavoro se ha una temperatura superiore a 37,5 o è sintomatico rispetto ai sintomi influenzali, o se proviene da zone cosiddette rosse tra virgolette, anche se questa è una definizione abbastanza ridicola visto che ormai è tutta una zona al rischio di contagio, e se ha avuto rapporti con persone che sono positive al virus. In questo caso il lavoratore deve informare l'azienda, deve sospendere la prestazione, ma queste sono delle situazioni in cui il lavoratore dovrebbe già stare da solo in quarantena, con una quarantena certificata dal proprio medico che gli dà la possibilità di avere il trattamento di malattia. Il protocollo stabilisce anche le modalità di ingresso in azienda. L'azienda può, in alcuni casi deve, controllare la temperatura, rispettando sempre quelli che sono i livelli di privacy, quindi non trattenendo i dati sensibili. Stabilire delle modalità di accesso: da una porta si accede e da una porta si esce. In più stabilisce per alcuni posti di lavoro in cui ci sono degli interventi dall'esterno, quindi se entrano fornitori esterni o comunque personale esterno, delle modalità di ingresso, una sorta di canale separato in cui gli esterni devono transitare, non possono avere contatti con gli interni. Gli autisti devono permanere sul mezzo, non devono scaricare e devono stare, se scendono dal mezzo, ad un metro di distanza. Per quanto riguarda gli uffici, vale la regola che vale per tutti quanti noi: le distanze sono di un metro, gli ambienti devono essere igienizzati e sanificati. Sanificati significa che non basta la normale pulizia, ma devono intervenire delle pulizie speciali secondo quelle che sono le direttive già emanate dal Ministero, che bisogna assolutamente controllare. Se però, questo dice il protocollo, le aziende non possono garantire una distanza di un metro tra un lavoratore e l'altro, devono dotare tutti i lavoratori dei dispositivi di protezione individuali, che sono camici, mascherine, guanti, protezioni fondamentali per mantenere una distanza inferiore da un metro. Devono essere sanificati e puliti tutti gli ambienti comuni, e quindi anche, non so, la macchinetta del caffè deve essere sanificata e pulita, tutti gli schermi, le tastiere touch le tastiere devono essere pulite. Ogni giorno si deve effettuare una pulizia e periodicamente, ma diciamo con una cadenza molto ravvicinata, anche la sanificazione dell'azienda. Ora c'è anche da dire che queste misure sono state giudicate insufficienti da parte di sindacati che non sono firmatari di questi protocolli, mi riferisco al SICOBAS e mi riferisco anche all'USB, proprio perché non prevede l'arresto della produzione e quindi lo stop delle attività che non siano attività alimentari o attività legate ai servizi pubblici essenziali. Per questo c'è un'indicazione generale di astensione dalla prestazione di lavoro se non vengono garantite adeguate misure di precauzione o di protezione, perché comunque, ripeto, il principio numero uno cardine anche di questo protocollo è che la produzione possa avvenire solo in presenza di condizioni, ripeto, che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Dove ciò non avviene, è legittimo astenersi dalla prestazione ed è anche un obbligo pubblico, se vogliamo comunque rispettare quelle che sono le indicazioni del nostro governo e soprattutto tutelare così la nostra salute e la salute pubblica. Quindi insomma il principio che vale è quello di precauzione e si fa riferimento all'articolo 32 della Costituzione. Assolutamente, sicuramente in questo momento l'articolo 32 è prevalente, il diritto alla salute, che è anche un diritto alla sopravvivenza in questa situazione, non è un diritto al benessere, è un diritto alla sopravvivenza e sicuramente quello che viene a essere giuridicamente definito come diritto prevalente, una sorta di diritto naturale, perciò non abbiate paura, se nel vostro posto di lavoro non sussistono queste condizioni, astenetevi dalla prestazione, astenetevi motivando la vostra astensione, sicuramente ci saranno delle misure che verranno prese per andare a mitigare poi gli effetti che l'astensione può provocare. Poi tenete presente che se siete stati a contatto o se comunque siete persone che hanno anche timore di essere stati a contatto con una persona che è positiva al virus, vale il principio dell'autoquarantena e questa quarantena avvisate il vostro medico di famiglia che la certifica come questa quarantena equivale a malattia. Attivate tutti gli strumenti che al momento sono in grado di garantire un reddito in questo momento di quarantena.